ormai non ti è rimasto l'osso. La mangiato lo danni lì, è bello. Sto guardando Geo e Geo. Cosa stai guardando? Un programma. Fanno vedere documentari. Ah, ho capito. Ehi, è bello, è così bello di bello. Mi sto seduto adesso. Oh, io dico che si può fare. E rivendi. Sta qua, pure nel giardino mi ha uso. Una busta di montezza di giugno, sta già là. E quella montezza ce l'abbiamo tutti, non ti preoccupare. Non ce l'hai solo tu, no, ce l'ho anch'io. Atto della garage. Allora, dopo scendo, l'acqua di mondezza e comincio a metterci tutto dentro le buste e ce lo butto verso le 8. E ancora un disegno. Certo, a me ne da poco di mondezza. Va bene, da me già c'è una cosa. La dici, mi butto, se la butto. Hai visto? E così è, no, ma nel carrato, c'ha le piante, no, nel carrato grande. Erano due chiesi, senza buoni puri, oggi appunto non era basso, un bustone di fuglie, tanta pianta, questa è morta, c'ha buttato. Perché così, adesso pettano le foglie d'inverno, capito? Quindi devi raccogliere, le piante sono belle, ma dopo devi raccogliere le foglie. Lo so, no, le rose fanno tutti i tipi di rose, quelle rosse stanno mettendo le foglioline nuove. Hai visto, quelle sì che sono rose, campagna. Non ci vuole l'acqua di cespugliatore, ci vuole veramente molto picco per togliere tutte quelle rose che ci sono incastrate una con l'altra. Ma io ne ho parecchie rose, al carrasco, sono tutti i colori. E quando io, è tutto fiorito, è bello mi apro una foto, tutti i fiori. Che bello, c'ho l'edera, c'ho le fiori rapicanti con tutte le campanelle. Quando fiorisce è bellissimo. Non so, dare anche un incentivo a me, nel caso fai una specie di giardino nell'entrasilo, lo sapevi? Se ti danno un incentivo statale, puoi scaricarlo. Ho ancora una pianta di nespole, ho un albero di pesche, piccolini già stanno crescendo. È bello. Ho messo anche quelli tutti triangolari, quelli triangolari verdi, in plastica, perché c'è anche dei fiori rapicanti, anche delle rose rapicanti, tutti i colori, gialle, rosa, arancioni, è stato il fiorito, quando fiorito è bellissimo. Meglio così. Se quando fiorisce è bello, va anche bene. Io anche nel pianerotto ho piante. Le piante grandi, con le foglie grandi. Io anche lì ho parecchie foglie. Vivo una via pulita alla base e una via pulita all'altra. Io lo so, purtroppo è così. Non si può far nulla. Abbiamo le piante, dobbiamo coltivarcele. Vabbè, lavoro già, però poi quando è tutto fiorito è piacevole, è bello. Poi nel mio si fa il burro di fiori, dai vivi per mettere il vasetto, il salone, in cucina. E poi quando è il periodo metto il basilico, io, il prezzemolo, tutti i viraggi. Ciao, vabbè. Peggio Maria, ho entrato oggi. Sì, l'ho sentito Sotto mezzogiorno e mezzo, già entra stasera, già si è ripreso, meno male. Aveva la glicemia alta. Aveva mangiato dolci, dolci, dolci, deve mollare. E già dice che ha mangiato un kiwi e un arancio. E gli si è alzata della pressione. E va la... la cosa, la glicemia. Solo con un lancio non so la glicemia, lo sai. Sono tutte quelle cose che mangiamo a periodo di Natale, pandoro, un pezzo di pandoro, appena appena risumante, poi noci, di tutto ci facciamo fuori. E quindi che è logico che sono la glicemia, anche il colesterolo. Poi quando smaltirlo ce ne vuole. Agnello. E allora voglio mangiare due becchi, ci sei, e due becchi di cioccolato. Buona vita! Hai fatto bene. Oggi mi sono cucinato pasta, fagioli e patate e carote. Ci ho messo un bel pezzo di giugiura di prosciutto crudo e un paio di strisce di quella pancetta tutta condita. Buonare deciso. A succedere un piatto umano faccio bagnato di ministra. Hai fatto bene. Ma se c'è appetito mangia, fregatene il resto. Poi c'era un profumo quando stava cucinando. Perché la gugiura era quella lì, era del prosciutto crudo. Che ho affettato, no, l'ho messo in frigorifero, ho detto quando posso la messa è passato e faccio il buon di me. E così ho fatto così, ma sta purissimo. Meglio così, hai visto? Messa passate, con fagioli, almeno si purifica tutto. Tutto butti fuori, sono quello che hai mangiato. Il periodo di Natale. No, ma io già, una volta la settimana già lo fa. Ho fagioli, o ceci, oppure lenticchie. Però mangiamo le lenticchie, stanno piace. Non che rimaniamo in giro. Mentre lenticchia, poco è buona. Hai visto? Io quella roba non le mangio, che lo sai, io mangio altra roba, ma le picche, pucci pucci. La posso ci metto la carota a cubetti, il vinuccio a cubetti, ci metto un batata a cubetti, poi ci metto l'olio d'oliva, una punta di estratto, un pomodoro di pezzettoni, un poco di sale, l'olio d'oliva, lo lascio bollire, tutto quanto, poi ci metto o lenticchie, o fagioli tondi, o fagioli pappa. Buona reggi, oh yeah! Fatti sciadigliare, che c'è, poche cose, tu ti posso sciacciare, perché tu ti posso sciacciare, che è, che non si può rimanere di due piatti. Così ti piace a te, no? Parlato. Senta, ma di tutti questi, di questi, di urbanizzarlo, a questi, il rodino, le comincio. E la bomba di maniato giusto, ma prendi per la più pieno un piatto. E poi mi ho mangiato un pezzettino di pane con le cervelletta e un salatino, ma il pezzo di pane è la metà di mezzo panino e basta, una mela. E poi... Grazie, hai fatto una bella colazione. No, a colazione mi ho preso il tè con una bella fetta di pandoro. Oh, io pandoro la mattina non ce la faccio a digerirlo così. Mi fa male a me il pandoro la mattina presto. Sono mangiato roba salata io. No, ma non c'è nulla. Ah, io me lo zuppo con il tennis. Invece di prendermi io sette biscotti, mi mangio una fetta di pandoro. E quasi come che siano due fette biscottate, da. E se non dà la bici, guarda, il pandoro. E io adoro il pandoro, tutto l'anno adesso, oramai lo fanno tutto l'anno. E vabbè, ma già ancora quattro, mi sono male in una brulata, si dice la gente. Non è che ne mangiano molte, io però me lo mangio a colazione al posto di mangiarmi le fette biscottate, se non mi do caldarli, o se no si guardano la bui e mi do calampato, e poi sì, a colazione me lo mangio io. Una fetta però, 12 kg. Una fetta? E allora, una fetta. E tu? Io pensavo tutto. Tutto? E allora, ci basta il gioco, no. Prendo una fetta, come la cosa che mi dici, come una fetta di anguria, là. Una cosa del genere. E poi lo chiudo, tanto me lo mangio su lui. E me le zuppo nel tè, perché mi devo pigliare le pastiglie dopo, no? Invece di pigliare le pastiglie, sì, bisogna per forza di mangiare qualcosa, sennò ti crepa. Per quello io mi mangio due fette biscottate, mi la taglio in quattro bici, me la infondo e me la mangio, per non prendere le pastiglie, insomma, col buco. Anche se prendo la valla, protezione, sempre lui battiti, lo mazzano, su l'insulina. E di cosa, che cosa c'è la di cui? Quello che è vero. E a te guarda il telefono che sta qua, facendo pidi. Ho capito. E se mi ha arrivato un messaggio, guardo il telefono. E guarda se vogliono fare una bolletta nuova, dell'Enel. Eia. Ciucciù. Ebbene, bubù, alto, sorello. Lo chef d'Italia, buonasera. Graziano. Ciao, Luigi. Ebbene, tutto a porto. Quello che è a posto, va, che era Antonello, ha detto adesso. Cos'è? Cos'è che ha detto, grazie? Che c'era Pompugno. Lusciabucco, vera. Era al telefono, ma deve essere lì, Antonio. Al telefono era? Io ero al telefono, Antonello, ci sarà. Forzato, ma è qua. Se lo senti, dire di chiamarmi. Dovrebbe entrare adesso. Era qui. Dove sta? Aspetta che risponda al telefono. Due minuti qua. Sarà forzato, ma già c'è. Dai. Ah, ce l'ha più la 27. Capito. 27 non è più. No. Ah, ma già ce l'ha il balassino. E quando te lo fa? Quello più grosso. Ah, l'RG8 è più grosso. R58. Ce l'avevo io quello, non l'avevo levato, perché ormai va troppo rigido, 30 gas a friggiarlo. E adesso vediamo, dai. Sto aspettando come arrivano i soldi, vediamo un po' cosa fare. No, io ce l'avevo quello, l'avevo levato, perché rimaneva in casa troppo rigido. E allora ho messo quello sottile, e anche io me lo devo cambiare adesso, quello lì. Una di ginnaggiugana lo cambio, perché c'è un po' di stazionare qua. O si è mollato il piello, non lo so. Deve mettermi a posto il baracchino, vedo che non succede niente. Fa vedere Antonello, me ne ha riparato uno da poco a me, Antonello, cioè me l'ha messo a posto bene, c'avevo l'inoisti ho sbagliato mettendo il più e meno, e se l'hai scusato di lui già me l'ha messo a posto. E capo, ma senti sempre bene, sì? Sì, sì. E io sono in cucina col gommino. E io sono in camera a letto, in camera, con il gommino. Adesso non ti sento, ti sei spostato. Ho detto, sono qua con il gommino. Adesso sì. E anch'io sono con il gommino, in cucina, in casa. Adesso provo a vedere, attaccare quello dell'antenna, a vedere se mi senti. Aspetta 5 minuti, dai. Già sono qua, chiama. Antonello. Graziano, Graziano, Graziano, mi senti? Ehi, dimmi, Luigi. Graziano. Sì, parla, già ti sei. Guarda, come mi ascolti adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anche più bene. Mi sono anche spostato e ti sento benissimo. Ah, più forte? Sì, e poi mi sono spostato e ti sento anche di qua. Ho capito. No, stavo provando l'antennino, l'antenna, quella che c'ho. Sì, sì, va bene, ti sento anche meglio. E più pulita. Più pulita pure. Vabbè, dai, adesso per un po'. Ma Antonello c'è? No, l'ho chiamato, non mi ha risposto. Però si è spostato. O se prende un caffè, boh, non lo so, adesso vediamo. Attenzione, Pomponio, Pomponio, se ci sei, batti un colpo. Polpo 1, polpo 1, polpo 2, avanti. Antonello, ci sei? Antonella, rispondi. Imbarrato, imbarrato. Mi sembra che si sta vaffanando. Vabbè, dai. Dai, 5 minuti, dai. Riprendo subito. Grazie, grazie a no. Dimmi. No, volevo vedere se stava funzionando, dai. Ok, dai. Mi ha allungato il capo, voglio vedere come sta uscendo adesso. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, come poco fa, si sente benissimo. Vabbè, dai. Ehi, chiara, è pulita. Bene, bene. Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? Andrea. Antonello, non tirare con la cannuccia. Pompugno. Grazie. Ehi, dimmi. Falle uno squillo a Antonello, dire di chiamarmi al telefono. Dimmi che Giuse. E me, uscio a buco, guarda com'è, come sta uscendo adesso. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segnale non ne hai, però ti sento di radio. Allora quello. In camera tua sì. Sono a casa, sono, dai. Sto uscendo con l'antenna, con quella là che mi hai dato tu. A me non ti sento adesso, anche se c'è il segnale zero, però la radio c'è. Dove ce l'hai? Dove c'è la cameretta tua? Dove c'è la cameretta mia, Prova a spostare la parte a vedere. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ciao Giulio. Tonello. Ciao Giuseppe, ciao Tonello. Rimetti dove era prima Giuseppe. Ciao. Oh. Buonasera. Ciao Giuseppe, e beh, già era un giorno senza sentirti. Bobo. Grande boss. Ascoltami il controllo. Come sto uscendo, guarda. Stai uscendo benissimo, va benissimo così. Sto provando l'antenna con il PMR e volevo vedere come stava uscendo. Come stava uscendo? Ah, non lo sento, perché in direttiva sta uscendo. L'antenna quella dentro casa, dai. Almeno l'audio c'era, adesso è sparito del tutto. Devi rimettere l'antenna come era prima. stato già arriva a casa tua voglia. Non lo so, Antone. Qui adesso arriva bomba, come adesso, poi si gira, non lo so. Guarda. Oh. Antonello, mi senti? No, ti sei abbassato Giuseppe. Mettila come era prima, mettila. Sei entrato. Cos'è, Antonè? Adesso va bene. Va bene? Perché ce l'ho in mano. La penna. Hai capito? Come ce l'hai in mano? Ma non ce l'hai attaccato al paletto? Attaccato al paletto, ma lo sto mantenendo con la mano, hai capito, in alto. Ah, metti il basamento rilasciato a terra, non ti preoccupare, non è che devi mettere in alto l'antenna. Guarda a vedere, ora, adesso è dentro la camera, Adesso ti sento bene io. Mi senti bene tu? Sì, adesso sì. Giuseppe, ti devi mettere l'elmetto, l'antenna, l'attacchi al centro dell'elmetto, guarda. E quando ti sposti va sempre bene. Ho capito. No, perché adesso mi ha dato un'antenna provvisoria, hai capito? Dunque adesso, siccome non butto giù la grande, e l'attacchiamo lì e poi vediamo come fare, hai capito? Ok Giuseppe, sì, no, ti sento bene, ti sento, ancora ti sento, non ci sono problemi. Vabbè dai, a dopo dai. Ok, ciao Giuseppe, ciao Antonè, a dopo dai, sto guardando la televisione. Ciao Giulio, ci sentiamo. A dopo. Antonello. Dimmi. Beh, adesso com'è, guarda. Adesso è molto meglio. Come sta uscendo? Adesso si è abbassato leggermente, ma poco fa, quando ho detto, adesso guarda, no? Sta uscendo benissimo. Sì, perché era dentro, era in camera, era, hai capito? Deve cercare il punto esatto, dove mi senti meglio, a me la blocchi. Oh, vabbè, sei dentro a casa, d'altronde, quindi cosa vuoi fare? Non è che una... Sono dentro a casa e dunque... A mal di gola sono. A mal di gola, sì. A mal di gola, ho pigliato freddo e mi ha bruciato la gola. Come mai, cosa mai? Come mai? Adesso che ieri, come ero a Coso... a fare quella cosa là, ma ha pigliato il colpo d'aria e mi ha puntito. Niente, questa non sia così. Vabbè, io ieri non sono neanche uscito, vedete, Questa l'aria che c'era, anche oggi me, sono uscito 10 minuti, si stava bene, dopodiché sono subito rientrato, perché c'è questo venticello strano, un po' c'è caldo, un po' c'è fresco, non si capisce nulla, poi piove. E ho capito. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, dai. E io so che l'ho che l'ascolto, scoppa. E beh, Antonio. Dimmi tutto. Pugna. Ah? Cosa hai detto, Graziano? Graziano. Non ti sento più, Graziano. Pelope! Nessuno! Chi è? Avanti, chi è? La luce si sta battendo, bello me! Accendi la 27! No, Maria non vuole, ci ho visto il televisore, non vuole! E poi sta il televisore! Ho perso un brutto! Io preferisco più il televisore che il baracchino! Mi sono arrivato adesso a casa! Sono andato a mettermi il sveglio al telefono, a prendermi la custodia. Ehi, nella 27 ci sono io, Gianmaria, Tore, ci ha pensato. Allora avete lavorato di più. Ho lavorato, un po' di forti. Vabbè, io già mangiato troppa pizza, rimane. Si è alcolizzato, sulla birra. Ma cosa birra? Che birra? Se tu vino la stava bevendo non ci credi. Vino. No, tequila. Vai giù, messicano è diventato. Mi hai detto? Messicano è diventato, e vieni a via lo sombrero. Non fa bene, no? Tequila. Tequila. Luca Rufo Tequila, sotto freno, pochi notti, Tequila, Perope. E lui? Beh, penso che non la doccia va me la posso fare, che sono tutto brutto, ma brutta anche le voci. Allora, io stavo lavorando, non lui. No, no, quanti a mani nude. Che schifo, tu dopo di procedere mascherina ai guanti. Sì, già li passavo le mani in capo, tanto vabbè, siamo in chivi, non è che. Grazie. Non parli. Grazie, lascialo lì che è peggio di un comunale. Ah, sì, la tequila, qua a volte caira barra tua cacca tu vuoi di sicuro dall'aino dai mi assento un attimo un po' che mi faccio la barba la doccia me la faccio venerdì e lu la barba mi devo fare grazie ma non so già cacchi di dirmi. O giù, e ti mandi se mi hai fatto lunga oggi, capire di recife tu. Se bisogna curirlo, baffalo travaglia. Ti passi no che ti lo curi, un mese di cavallo, un cristino. Catta, come ti lo vedi, sì? Eia! E beh, era per te terminata, è una cosa. L'ho terminata. Ma fatta la legge, c'è niente lì, i residenti da lì dentro. Non solo, è una palla. Ha perso una palla. Non c'è uscito. Caruso sei. Giù con giù. Attento, gufo. Attento, gufo. Eia! Capito sì! No, non era per distretto, c'è il maschio direttore! E la ci piazza tutto che è una gara, oh! Plastica, c'è tanti giorni con la plastica! Oggi mi sembrava che sia lui, no! Bubu, si di magnetti furumi, mi raccomando! Stiamo qua vedendo di spaffe, ci sto finendo! Ma non pare che mi solo però, Digliela a loro, digliela a Fei, digliela adesso. Luca! Ma che lo vuol dire? Attore a macchina. Mi lasci sempre da solo, grazie, non va bene, scusa, non siete manca a lavarmi la schiena, bravo. Maialone che non sei altro. Solo dico a Rosi che non sei venuta a farmi lavarmi la schiena. Sì, digliela, dici bello. Chiudo, a domani. Ciao, a domani. Ciao Luca Lupo, se stai ascoltando. Si chiama Luca Lupo. E cos'è? Affugendisi. Luca Mame Cocco. Affugendisi. Ehi, cosa ci fai? Affugendisi. Ma niente. Ma niente. La birretta o spumante? No, io ma niente. La birretta? Ma niente. La birretta niente? No. Ho mangiato un po' di salata con i somiri e cipolla e la frutta. Questa mattina ragazzi devi riempire le tue pesanti. E lui tanto. Vabbè, una volta all'anno bisogna mangiare la salata. Come stava vi l'ha detto partito, va bene? Eh beh, sa, sta persona che mi ha detto che è entrata a rimanere oggi non ha gentilezza io però. Oh, chiamalo! Vai, te le faccio un brutto. Che buon rimano, oia! Ammazza! Quello che dico io, ha detto, ma c'è che ti cerca? Solo questo. Non so musica da nessuno. No, facciamo la nostra chiacchierata, le nostre cazzate, spariamo, non stiamo disturbando a nessuno, non è troppo, tu cosa dici? Ma infatti, ecco cos'è che rinfrigge la gente. Se vuoi rispetto, dallo, no? Non siamo bambini, siamo abbastanza grandi, vaccinati. Perciò, rispetto è reciproco. Ha rubato il canale, la frequenza. Allora, noi... adesso si brucia a ganna. Lillo, se ti rode il culo, dillo! Lo si sicussi? Lillo, se ti rode il culo, dillo! E bu! E lo da tu! Guarda che ti ha muore! E io! E chi? Sempre colpi importanti. Con l'olio che mi ha regalato, Graziano, buono, Non si illuminava, non si può resettare un'altra volta. Ed è già la seconda. Però ti ho toccato qualcosa. Qualche postazione, non sono venuto a bucare di piedi. E beh, mucco. Stiamo cenando. E tra un po' andiamo a continuare il lavoro, dopo sul telefono. Non riporta, io devo cambiare il display. Così non mi rimane più dei pezzi. Ci vuole per cambiare il 5? No, sì, sai che mi sono proprio dimenticato. Se tu mi mandi un messaggio, io me ne dimentico. Rincoglio di 28 tale. Sono due tipi di cacche però, c'è quella che la sogna e quello che ci lavora. Se vuoi i soldi, anche la cacca devi vedere. Finito. Falda acquifera che c'è da recuperare acqua, ci vuole, guarda, una sommersa e c'è l'acqua gratis. E allora lì proprio, guarda, una cosa incredibile, non si capisce se è roba di condotta o roba di qualche falda che c'è lì sotto, ma acqua pulita chiara. Il fatto che non si sa, è troppo pulita anche per essere qualche falda o qualcosa. Vabbè, che poi lì, da quelle parti, già lo sai, ci passa sotto quel ponte vicino all'officina, al lato lavaggio, ci passa l'acqua lì sotto. Ma è che non sia roba, quella roba lì, E gliel'ha data a Luca, ma non lo vuole bere, ha detto non si fida. Ma perché dei battiti? Infatti gli ho detto, cosa sai chi va per da, fai finta che sia acqua di Sennica. Stavi lavando a Selli un po' con quali preoccupati. Andare, tutti si può lavare a Selli in chili, come se tu vuoi essere buttosi. Ma risulta, non avevamo la cosa noi. Dove c'è il magazzino? Dentro il magazzino, quel pozzetto era intasato e ho dovuto pulire, svuotare, perché quella falda lì praticamente stava facendo smottamento sotto, ha fatto crollare tutto e ha intasato il buco dello scarico che è fatto a foratini, era, sai, 100 anni fa. Così che ho liberato e abbiamo scoperto questa falda lì che ci passa. Già va bene. Dai che ci organizziamo, mettiamo la salsiccia anche. A prenderla lì? Sì, ma una volta che sigilli bene, se no... E chiuso, è finito. Adesso domani devo solo... Ma perché gli ho messo poi un pannello da un metro di lunghezza, di quelli di cantiere, no? Sopra, nuovo. In modo tale che se si dovesse di nuovo intasare per altre cose, non fa altro che l'autospurgo, togliere il pannello e aspirare, capito? Poi adesso, una volta sigillato, poi da lì l'odore non esce più. Tra girmi e ballevare, già lo sai. Anche perché, essendoci di continuo quella falda, che l'acqua adesso, io avendo fatto il contenimento del terrapieno di sotto il pavimento, gli ho fatto il contenimento a blocchetti, e adesso l'acqua, quella falda se l'ha fatta sotto il blocchetto e va sempre lì a scaricare, sicché appunto non ne verrà più fuori, perché esce acqua a litri veramente, guarda. Non lo so. Ho visto le foto giusto così, ma acqua non ne ho visto correndo. Non so che foto abbia fatto Luca, però si vede proprio un fiume, è una cosa incredibile, guarda. Guarda, non vorrei dirti balle, ma una bottiglia da un litro te la riempi in 2 secondi, 3 secondi. Allora è da recuperare, quello l'arco blu. È un peccato, infatti, non si sa se è una condotta rotta dalla strada di su. Ho capito. Non so che dirti. Vabbè, comunque, se è chiusa ora, meglio così. Ma almeno non esce più la puzza, perché essendoci più acqua della falda che acqua della fogna, come scaricano? L'acqua della falda se la porta via in un batterio di baleno, capito? Beh, quello sì. Se c'è anche la mandata così, a gratis. E allora, quello è. Aspetta, se trovo un video che avevo mandato a Daniele. Già ho capito comunque, fregata, già ho capito. No, non ce l'ho, è un video, ma è roba di come si riempiva in fretta ancora prima di trovare l'otturamento, capito, del pozzetto. Ho capito. In temi a Cagliari, lite per i sacchetti, pugno al dipendente dell'Eurospin che finisce in ospedale. Tu immaginare che per un centesimo Non sappiamo cosa fa con questi sacchetti, boh. Oh, stamattina a proposito, lui sono passato là, però non ce l'ha mandato niente ancora, forse se ne parla per meglio. Io credo sia a febbraio, perché se ci hanno anticipato gli altri. A febbraio? Sì, perché a parte che se c'erano degli arretrati mi hanno detto che sarebbero arrivati a casa, però il resto è a febbraio. Aspettiamo. Luca, avvocati nel soffitto di coso, da bocca. È vero, la sto facendo un'insalata, buona, eh? In quell'olio di Graziano. Sale, un po' di sale, buona. Allora sei a Pisa? Sì, a Tiro. Niente segnale, però già c'è la radio, dai. Pure tu, Maria, segnale 1, radio super. Vabbè, perché non sono un diretto. Se metto l'altro arriva più forte. Ma arrivi benissimo, sì. Come quello mio stai usando? No, l'altro. Ma arrivi bene, vabbè, la radio, forte. Tranquillo, lascia questo. Ehi, ma se uso l'altro, è ancora più forte. Prova. Quello è il tuo, aspetta. Ebbè, com'è? No, devo usare il microfonino perché fa anche cagare. Questo è il microfonino, eh? Tutto così, semi, così, ma qui non lo sto usando. No, veramente? Sì, la gira, la provo a attaccare. Vabbè, staccandolo è un'altra cosa, aspetta. È molto, molto nasina, il microfonino. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Com'è? Migliorato? Tu, migliorato, guarda un po'. Piccato, l'altro non l'ha rotto. Così migliore, secondo te? Perfetta, bella, forte, chiara. Andare, beh. Però per comodità uso il microfonino, capito? Vabbè, perché io l'avrei usato, ma purtroppo... bisognerebbe cambiare la capsula, poi questo è amplificato, pare che questo me l'ha regalato un amico mio, e ha fatto, gli ha allargato il buco, gli ha allargato. Ma questo segnale ne ha? Guarda un po'. qua si fanno scala. Vabbè. Sono più vicino. Ti, qua sei quasi a fondo scala. È diretta. Io diretta non ne ho. Quindi bravo, in capo. No, non posso su. Solo la prima sa su. Già va bene, dai. Però mi devo mettere una frequenza qua, quindi uso l'altra, se te l'ho imposto. Attento, cuffo! Tocca marracocco! Tocca schillacci! Bisogna trovare una specie di... una specie di palazzia removibile. Quando serve l'acqua lì a riempire il serbatoio con una sommersa, tanto in pochi... pochissimi minuti lo riesci. Ma usiamo il quale? Non capisco. Stavo dicendo una specie di paratia, no? Che chiudi al momento ti serve l'acqua della cosa, della condotta, di quella roba che c'è. E riempire il serbatoio, no? E tramite una sommersa riempire il serbatoio e poi aprire di nuovo la paratia in modo che l'acqua vada a finire sempre nello scarico, nel possesso. Ciao Fabri, allora, che ti dice? È successo ieri che mi stavano raccontando di un'intrusione, non so. Allora conosci anche a me, hai registrato anche la mia allora. Non mi sente che? Fabrizio! Basso, ma già ti ascolto. Ciao Fabri. Ciao. Ma infatti che fastidio stiamo dando, non so io. E meno male che siamo tutti attaccati, se no non esci i macarrucci. Scusate, riprendo io che mi devo allontanare dalla radio. Ci si riascolta, ciao, divertitevela. Ciao. C'è scelto il bambino, va bene, ciao. Ciao Tino, stavo lavando le mani, non posso toccare la radio, rimane un zucchino. Ciao, alla prossima. Sì. Ciao. Forse voglio rimanere solo loro. CP, non ne più noi, CP, tu e lui, per carità. Ci faremo noi pure, boh. Arrasta il mattino, boh. E allora, poi vogliamo fare scuola ai CP. Però... purtroppo la maleducazione esiste anche se sei radioamatore, se sei maleducato è inutile. E allora. Ma allora ti dico, io non dico nulla, una futinuta, non. Guarda, no, non è più come prendevo figlio usarlo, invece che. Aspetta, non devo dare nulla a nessuno, perché alla fine la tassa la sto pagando. Perciò. Beh, fa piacere, se c'è qualcuno fa una chiacchierata entra senza problemi. Ma mica non siamo padroni, fanno entrare. Grazie, magari, cosa ne so, delle informazioni su come costruire un'antenna, spiegarci tante cose che noi non sappiamo e loro ci possono aiutare. Ah, ma infatti. Sono radioamatori perché soltanto per fare collegamenti, tutti così vicini. E poi, però veramente, nei giorni non stanno manco collegando più la giù. Sì, anch'io ho saputo che era più semplificato adesso. Aperta! Sì, sto mangiando carne rotonda. Mia, ti mangia l'antenna, amico. Boh, non so neanche quanto, sinceramente, quanto lo mangia solo. Ho capito, sì. Ma dice che forse da quelli toglievano gli esami, non so, li facevano a Roma. E allora, infatti. Poi che avevo sentito, perché non c'erano abbastanza, qua non c'era abbastanza domanda. Spero di nuovo, no, è un po' che non è senso. O chi dice che sono passati in tosca. Infatti, perché poi con questa tecnologia anche, prima si usava praticamente il telefono, così che c'era qualcuno che voleva entrare. Chi era avanti? Ciao, ci sei? Ciao Deborah, Luca in compagnia di Fabrizio e di Luca del Monte. Chiacchierando del più del meno di esami da radioamatori e queste cose qua. Avanti Fabrizio! Lo senti Fabrizio, Deborah? Io sono a Gommino sempre, solo che magari sono più alto io, forse per quello che sì. Beh, te poi non si vai. Sento Luca! Sa che trans! Si chi piace a te! Marco se ne sapete, ma siete martiriti proprio voi, subito. Vedi, per colpa della gente come Luca, se tu non entra mai nessuno a radio. Io non sento nessuno su di foto, di tutto. È strano di venire buttate. Io... No, io già sento. A parte sono sentato molto. Cos'hai dato? Un po' tagliato? Era fatta entrare come Deborah. Poi dopo una marina, la voce sentiamo te Michela. Sì, chi è? Avanti. Chi sei? Ah, ciao Maria, da dove stai parlando? Deborah, non Maria, lo sapete Maria, dai c'è Maria. Oh! Ma va Deborah, non si. Regista è un po' c'è la sentire, vamola sentire, avete WhatsApp, da. Ciao Fabri, ciao, buona cena, alla prossima, ciao. Ciao Fabri, buona cena, alla prossima. Avanti Deborah. Deborah. Io e Luca. Ma Luca non so se ti sente bene, avanti. Lo senti bene tu a Luca? Ah, vero. Ancora non arriva Luca. Tiro. Sì, dimmi, dimmi. Mi tiro la sera. Dimmi però, cosa c'è? Ascolti tu, a te ti sente? Davvero? E lui? Hai mangiare. Luca mangia voi? Telefono? Sì, frequenza allo nordo con la Sardegna, allo nordo con la Sardegna che stiamo chiamando a Porto SL, Italia, Italia, Sierra 0, IS0, IS0, Chi era lui? Chi era con il nominativo? No, dimmi. Cosa c'è lui? No, noi siamo tutti quanti a diretta. Siamo, ci crede? Vabbè, finita l'abbiamo con queste cose. Non credo, non spesa una misura, figurati. Ciao Deborah, ciao, sono al telefono. Ciao, ciao.